chiama Charlie, rispondi, ci sei, cambio, cambio, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Prego, prego, prova, 1, 2, 3, prova. Houston, qua c'è un problema, Houston, Houston chiama base, Charlie rispondi. Brecco, brecco, prova, prova, brecco, brecco. Attenzione che bestia su cane cappellone in giro per Rosso Carrero. Occhio, occhio a su cane cappellone. Bibi, wow. E cinghiale come fa. Brum, brum, brum. E cinghiale come fa. Brum, brum. Prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova, prova, brecco, brecco.